La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. La bella Adelaide dai capelli rossi e i tre briganti. Una fiaba liberamente ispirata dalla tradizione popolare, scritta e messa in voce da Gaetano Marino. C'era una volta, in un paesello di campagna, una matrigna di bell'aspetto, che di mestiere faceva la fruttivendola. Si chiamava Concetta. La donna rimase vedova dopo che il marito scomparve in circostanze misteriose. L'uomo aveva una figlia, bellissima, che si chiamava Adelaide, alla quale aveva lasciato in dote la bottega di frutta e verdura. Adelaide era alta e aveva i capelli rossi. Il suo viso appariva dolce e delicato, tanto che pareva una sirena scolpita nel marmo. Tutti in paese dicevano che fosse assai più bella della matrigna, seppure donna Concetta era piuttosto carina, per carità. Carina? Io? Questo si dice in giro di me? Pensò rabbiosa donna Concetta, con una smorfia che le rimase sulla bocca. Ora ve la faccio vedere io quanto sono carina. Rimuginò donna Concetta. Questa è la volta che mi sbarazzerò una volta per tutte di quella smorfiosa. Così resterò io padrona della bottega. Donna Concetta chiamò Antonicco, il servo di bottega, e gli ordinò di portare Adelaide nel grande bosco con la carrozza e di farle fare una passeggiata. Ma una volta lontani dagli sguardi della gente, Antonicco doveva sopprimere Adelaide. Come prova, la donna Concetta volle dal servo una ciocca di capelli rossi della ragazza e minacciò che se egli non avesse eseguito l'ordine sarebbe stato rimandato in mezzo alla strada a mendicare. Ignara di tutto, Adelaide accolse con gioia la proposta d'andare a fare una passeggiata nel bosco con il servo Antonicco. Il giorno dopo, Antonicco e Adelaide salirono in carrozza. Il cocchiere Liborio, che stava in cassetta a condurre, spronò i cavalli e partirono. Era la primavera, i fiori sbocciavano, la natura si riempiva di colori e gli uccellini cinguettavano d'amore. Quando giunsero in mezzo al bosco, il servo Antonicco levò la tendina e ordinò al cocchiere: «Ferma! Ferma, Liborio! Va bene qui!» E Liborio fermò la carrozza. «Che succede, Antonicco? Perché ci siamo fermati?» Antonicco rimase immobile, con lo sguardo basso per un po', e poi parlò. «Mi dispiace, Adelaide.» «Ti dispiace? Che cosa?» «Donna Concetta mi ha ordinato di portarti qui e...» ucciderti. Donna Concetta, ma che dici? La tua matrigna è divorata dal livore a causa tua. A causa mia? Tutti dicono in paese che tu sei molto più bella di lei, e questo lei non lo può sopportare. E poi, perché quando tu sarai morta, lei resterà unica padrona della bottega. Non posso crederci. Come può farmi questo? Può e come. Quella donna è malvagia. Tradire la memoria di mio padre. Lei sa bene quanto lui l'amasse e quello che ha fatto per noi tutti. E lo sai bene anche tu, Antonicco, disse Adelaide, guardando con pena il servo che ascoltava muto e con il capo chino. C'eri anche tu quella notte, quando mio padre sacrificò la sua vita in quell'incendio del fienile, dopo che aveva messo in salvo tutti gli animali. Se non fosse stato per quella trave che calò d'improvviso sui cardini della porta, intrappolando nel fuoco mio padre, egli sarebbe ancora qui, con noi. E lei, la mia matrigna, lo ricambia ordinando di uccidermi. Come può essere così malvagia? Dimmi che non è vero, Antonicco. Antonicco stette ancora in silenzio. Poi si piegò su un fianco per levare rapido un grosso coltello dal fodero e lo puntò contro Adelaide. Lo sguardo del servo pareva avvilito. La ragazza sgranò gli occhi e si fece pallida. Provò ad indietreggiare, ma, ahimè, non poteva fuggire perché le porte della carrozza erano state serrate dal cocchiere Liborio. Antonicco si accostò ancora più ad Adelaide, brandendo il coltello vicino al suo viso. La povera ragazza non ebbe nemmeno la forza di gridare aiuto. La voce le si strozzò in gola. I suoi occhi supplicavano pietà, ma Antonicco pareva impassibile. La ragazza si rassegnò e chiuse gli occhi, in attesa che il servo le infliggesse il colpo mortale. E il tempo parve fermarsi. D'improvviso si sentì un taglio netto, come fosse una rasoiata. Adelaide non sentì nessun dolore, ma non sentì mancarle la vita. Qualcosa l'aveva strattonata. Aprì gli occhi ancora pieni di supplica e vide Antonicco che stava lì, fermo di fronte a lei, mentre teneva stretta in mano una grossa ciocca dei suoi lunghi capelli rossi, recisa di netto, mentre con l'altra mano riponeva il coltello nel fodero. Non è giusto. Io non posso, disse Antonicco con le lacrime che parevano rispondere alla propria coscienza. Adelaide fece appena un grosso sospiro, come quando si riemerge dopo essere rimasti in balia delle rapide di un fiume. Questi li prendo con me. Donna Concetta mi ha ordinato di portarle una ciocca dei tuoi capelli rossi, come prova della tua morte, disse ancora Antonicco. In quell'istante la porta della carrozza che stava alle spalle di Adelaide fu aperta e apparve il cocchiere Liborio con un paniere in mano. Scappa, Adelaide, disse Antonicco, e non tornare più in paese. Ora la tua vita è in pericolo, e lo sarà pure la nostra, se ti dovessero scoprire ancora in vita. Ecco, tieni, in questo paniere ti lasciamo i nostri viveri, disse il cocchiere Liborio. Non possiamo darti altro. Adelaide scese dalla carrozza e provò a dire qualcosa. «No, non dire niente, Adelaide», disse il servo Antonicco. «Ma è bene che tu sappia che quella trave che si posò sui cardini della grande porta intrappolando tuo padre nel fuoco non cadde a causa dell'incendio. Fu donna Concetta che la spinse. Ti dico questo perché ho visto tutto e da allora vivo nel rimorso di non aver detto nulla a nessuno perché avevo paura di tornare a mendicare, perché sono un vigliacco. Il resto lo sai». «No, Antonicco, non sei un vigliacco. Tu ora mi salvi e te ne sono grata. Vai, Adelaide, corri, salvati e che il destino ti sia favorevole». E la ragazza fuggì nel bosco, con l'anima a pezzi. Grappoli di lacrime le coprivano gli occhi, annebbiandole la vista. Con la mente sconvolta, tornava continuamente al maledetto incendio di quella notte di fuoco. Corse e corse nel bosco, senza fermarsi mai, in mezzo al fango e tra i cespugli. I rovi le pungevano a sangue la carne e laceravano i vestiti. Gli uccellini non si sentirono più cantare, persino i fiori perdettero i loro colori. Quando scese il sole e il crepuscolo della sera cominciò a confondere ogni cosa, Adelaide cercò un rifugio dove poter passare la notte e mangiare un po'. Trascorsero così i giorni con Adelaide che continuava a vagolare senza meta. Purtroppo dopo un po' il cibo finì ed ella provò persino a cogliere bacche e frutti, ma non sapeva quali fossero commestibili e quali no, per cui decise di non rischiare. Quando ormai non aveva più forze per proseguire, trovò un grande albero castagno e vide che nella parte di sotto del tronco il tempo aveva scavato una grande nicchia dentro la quale Adelaide poteva starci, e vi entrò. Strinse le ginocchia e provò a dormire per non pensare alla fame. Ed improvviso si sentirono delle voci provenire da fuori. Qualcuno gridava e qualcuno rideva e qualcun altro inveiva. Adelaide sollevò il viso e le parve che quelle voci provenissero da un altro grande albero di fronte a lei. Era una quercia antica, poco distante. Com'era possibile? La ragazza guardò meglio e scoprì che tra i folti rami della quercia stava incastonato e ben nascosto quello che pareva un rifugio. Vi era una porticina e di sopra stava una finestretta. Adelaide si strinse ancora di più e rimase immobile, non sapendo che fare. D'un tratto quella porticina si aprì bruscamente. Vennero fuori tre uomini, grossi, armati e conciati come di solito lo sono i briganti. S'azzuffavano tanto tra spintoni, sberle, risate e grida che parevano un esercito. Una volta fuori dal rifugio, i briganti accesero le lanterne e, avviandosi per un sentiero, intonarono un coro. «Siamo in tre briganti, con fucili e con bastoni. Se incontriamo quel riccone, mangia grasso a tradimento, lo spogliamo e lo svuotiamo. Siamo in tre briganti, con fucili e con bastoni. Mai ai poveri noi rubiam, sempre a loro noi doniam. Attenti a voi, guai a chi! E i tre briganti scomparvero tra i grossi cespugli del bosco. Adelaide, che era sfinita dalla fame, pensò di entrare in quel rifugio per cercare qualcosa da mangiare, magari anche solo un tozzo di pane, e poi scappare via. Ma quale fu la meraviglia quando entrò in quel rifugio? Vide tanto di quel cibo che quasi si sentì svenire. E dato che la fame dona coraggio e incoscienza, la ragazza pensò che se avesse arrostito una bella bistecca, i briganti non se ne sarebbero certo accorti. Mise subito la carne nello spiedo e dopo averla arrostita la mangiò, ma sarebbe meglio dire che la divorò. Poi passò alla frutta succosa e infine divorò dolci a volontà. Soddisfatta la fame, Adelaide pensò di ringraziare i briganti padroni del rifugio. Per farlo mise in ordine ogni cosa. Lavò i piatti, spolverò, spazzò il pavimento, fece persino il bucato e stese i panni. All'alba Adelaide uscì dal rifugio dei briganti e andò a nascondersi nella nicchia del grande albero appena in tempo. Qualche attimo ancora e si sentirono i tre briganti tornare al rifugio che cantavano: «Siamo in tre, tre briganti con fucili e con bastoni. Quel riccone abbiamo trovato. Ora certo non mangia più. L'abbiamo spogliato? Sì, sì, sì. L'abbiamo svuotato? Sì, sì, sì. L'abbiamo legato come un salame. Ohe, ohe, ohe. Zumpa, zumpa, zumpa, pa. E ridendo e azzuffandosi e dandosi sberle a vicenda, i tre briganti entrarono nel rifugio. Appena furono dentro, pensarono di aver sbagliato posto e uscirono di corsa. Da fuori videro che quello era proprio il loro rifugio. Allora rientrarono cauti e guardinghi. Incredibile! Tutto era in ordine e pulito. Ma com'era possibile? Sì, quello era il loro camino, libero dalla cenere. Quella, la loro cucina lavata e scrostata. Subito andarono di sopra e... sì, quelle erano le loro stanze, dove l'ordine le aveva rese quasi irriconoscibili. Oi, oi, oi! Qualcuno era entrato in loro assenza? Sì, ma chi? Sentite, fratelli, disse il fratello maggiore, facciamo così. Stasera usciamo, e invece di andare a lavorarci qualche altro riccone, come sempre, ci nascondiamo dietro un grosso cespuglio e vediamo che succede. E così fecero i tre briganti. All'imbrunire uscirono dal rifugio, andarono a nascondersi e attesero. Dopo un po', Adelaide tornò nel rifugio dei tre briganti, ma appena chiuse la porta, quelli entrarono di soppiatto, tirando fuori i bastoni per assalire l'intruso. E scoprirono che era un'intrusa, una ragazza, e per giunta bella assai. I tre briganti le domandarono: «Ma tu chi sei?» «Mi chiamo Adelaide. Vi prego, non fatemi del male. Sono rimasta sola e scappo dalla mia matrigna, che mi vuole morta.» «La tua matrigna?» esclamarono i tre briganti. E Adelaide raccontò tutta la sua storia. Dopo averla ascoltata, il fratello maggiore disse: «Tu, da oggi, non dovrai più temere per la tua vita. sarai nostra sorella e noi i tuoi fratelli, e tutti ti dovranno portare rispetto. Dico bene, fratelli? Ben detto, fratello capo! Gridarono in coro gli altri due fratelli. Adelaide ringraziò e accolse con gioia l'invito dei suoi nuovi fratelli. Da quel giorno i tre briganti, quando tornavano al rifugio dopo il lavoro, diciamo così, tutto stava in perfetto ordine e il cibo era sempre pronto e caldo a tavola. Ma dovettero cambiare le loro abitudini di uomini rozzi e incivili, cioè lavarsi ogni giorno con il sapone, pulirsi le mani prima di sedersi a tavola, indossare abiti da briganti freschi e profumati, e nessun turpiloquio né parole volgari. Il vero dramma fu quando non si poté più entrare in casa con gli stivali sporchi di fango. Quelli dovevano restare fuori. Ciascun fratello era costretto ad indossare le babbucce, di cui ovviamente i tre briganti non ne avevano mai conosciuto l'esistenza. Figuriamoci, e fu davvero una grande impresa insegnare loro come si dovessero indossare, ma poi, con il tempo, impararono e ne furono felici. Intanto, in paese, la matrigna donna Concetta, dopo aver avuto da Antonicco la grande ciocca di capelli rossi di Adelaide, era diventata proprietaria della bottega. Ma soprattutto, in paese, non si poteva più dire che la più bella fosse Adelaide, perché nessuno più la vide. Venne poi un pomeriggio in cui, durante la festa grande del paese, il servo Antonicco si trovava in compagnia di tanti amici e compari. Stava seduto alla tavola del cibo e, come di solito capita nelle feste, tutti abbondarono nel bere. Antonicco non fu da meno e tra un bicchiere e l'altro, a tarda notte, svelò sottovoce al compare che gli stava a fianco che la perfida donna Concetta, prima che diventasse unica padrona della bottega, gli aveva ordinato di uccidere Adelaide. Ma lui non aveva eseguito l'ordine perché aveva provato pietà, e venne poi a sapere da amici che Adelaide era stata adottata dai tre briganti del bosco, che la rispettavano e la riverivano come una sorella. In quella notte di festa, il destino volle che proprio ai piedi di Antonicco stesse accucciata una cagnetta che si cibava degli avanzi di cibo. In verità, quella cagnetta era la fattucchiera del paese, Filedda, portatrice del malocchio e grande esperta di filtri stregati. Quella sera, alla festa, come in tutte le altre grandi occasioni, Filedda aveva preso le sembianze di quella cagnetta per spiare qualche segreto e per l'occasione ricattare i partecipanti alla festa. La mattina dopo, Filedda si recò a casa di donna Concetta e le svelò quel che aveva sentito alla festa. Figuratevi la rabbia di donna Concetta, che subito chiese alla stessa Filedda un malocchio contro Adelaide. La fattucchiera le disse che da poco aveva forgiato nella propria fucina un bracciale dai tanti luccichii, bello a vedersi, ma con il potere terribile di procurare un finto sonno eterno. In poche parole, poteva sembrare morta, ma non era per davvero. Donna Concetta ne fu felice e pagò tanto la stessa Filedda affinché si recasse lei stessa nel rifugio dei tre briganti e riuscisse a far indossare ad Adelaide quel bracciale. Filedda accettò la ricompensa. Si travestì da donna anziana, con abiti elegantissimi, e mentre i tre briganti stavano fuori dal rifugio a spennare i signori ricconi, lei s'accostò alla porta e bussò. «Chi è che bussa alla porta?» chiese Adelaide, affacciandosi alla finestra di sopra. «Salute a te, o bella fanciulla! Puoi tu aprire la porta? Vorrei farti vedere questo bracciale pieno di tanti luccichii. Passeggiavo da queste parti in cerca di asparagi e ho trovato questo gioiello sotto un cespuglio. Magari è tuo?» «No, non è mio. Io non posseggo bracciali, signora. L'aveva perso qualcun'altra.» «Ah, non è tuo? Peccato! Questo bracciale è davvero assai bello! Non vuoi vederlo? Vieni, apri la porta, oh bella fanciulla!» «Mi dispiace, signora, non posso scendere ad aprire. I miei fratelli m'hanno consigliato di stare in guardia dagli estranei e io, perdonatemi, non vi conosco.» «Ah, capisco. Beh, mi pare prudente, giusto, che i tuoi fratelli t'abbiano consigliato prudenza. Va bene, bella fanciulla. Sai allora che faccio? Te lo lascio qui, davanti alla porta, e se verrà qualcuna a chiedere il bracciale, potrai darglielo tu. Io devo continuare a cercare asparagi. Ecco, buon pomeriggio, allora!» «Buon pomeriggio anche a voi, gentile signora, e buona raccolta!» La fattucchiera sapeva bene che il desiderio di vedere quel bracciale pieno di luccichi avrebbe tentato Adelaide e che prima o poi sarebbe stata assalita dalla voglia di vederlo. E infatti non passò molto che la porta del rifugio si aprì lentamente e una tenera manina sporse da un lato per afferrare rapida quel bracciale. Adelaide richiuse la porta e subito fu abbagliata dai tanti luccichii del gioiello. Come per istinto lo infilò al braccio e sorrise, osservandolo da un lato e dall'altro. Bastò un attimo e gli occhi di Adelaide si levarono verso l'alto, mostrando il bianco delle pupille, e iniziarono a roteare in ogni direzione. Si chiusero le palpebre e ci fu un lungo sospiro, come se dal corpo della ragazza venisse fuori la vita. E infine Adelaide cadde a terra che pareva morta, mentre il bracciale svaniva in una nuvola di zolfo. Quando all'alba rientrarono i briganti e videro il corpo della loro sorellina senza respiro, si disperarono e si infuriarono ruggendo come belve. Chi poteva aver ucciso Adelaide e perché? L'unico pensiero cadde su donna Concetta. Solo lei poteva aver motivo di far del male alla loro sorellina. I tre briganti erano pronti a vendicare Adelaide, ma non avevano prove, perciò decisero di aspettare, sicuri che la verità prima o poi sarebbe venuta fuori e allora avrebbero fatto giustizia a modo loro. Intanto bisognava pensare al funerale dell'amata sorellina Adelaide. I tre briganti scesero nel rifugio segreto dove tenevano la refurtiva, con l'intento di scegliere per Adelaide il più bell'abito da principessa che avessero. Le avrebbero adornato poi le dita con anelli di zaffiri, rubini, diamanti, infilato bracciali e collane d'oro, e di sicuro non sarebbe mancata una coroncina tutta d'oro bianco. E infine, ai piedi, le avrebbero infilato un paio di scarpette di raso di bisso pregiato. Ma ripensandoci, i tre fratelli dissero che Adelaide era sempre stata una ragazza umile e talmente bella che non aveva bisogno di tutti quegli ornamenti. Lei stessa, se avesse potuto, li avrebbe rifiutati. Scelsero dunque una veste semplice di lino e nient'altro. Conclusa la vestizione, deposero il corpo di Adelaide in un sarcofago ricavato da una grande pietra di opale, splendente di tanti colori, e lo adagiarono nella nicchia del grande albero, proprio quello dove la ragazza aveva trovato rifugio prima di incontrare i nuovi fratelli. Trascorse il tempo e una mattina il nobile principe della contea, Baldovino, mentre andava a caccia con le sue guardie, si trovò nei dintorni del grande albero di castagno, mentre inseguiva un capriolo. Subito rimase abbagliato da una luce intensa che rivestì di tanti colori il suo cavallo bianco. Il principe cercò di vedere da dove quel bagliore provenisse e notò che giungeva dalla nicchia di un grande albero di castagno. Baldovino si avvicinò e vide in quella nicchia un sarcofago luminescente di pietra opale. Al suo fianco dormiva rannicchiato un animaletto che pareva un topo, ma non era proprio un topo. Però gli assomigliava tanto. Il principe entrò nella nicchia, ma nell'avanzare calpestò una foglia che si spezzò. Quel rumore svegliò l'animaletto topo, non topo. «Chi è là? Ehi tu, fermo dove sei!» disse minaccioso il topo non topo, estraendo il suo spadino. Il principe Baldovino sgranò gli occhi. Quella specie di topo non topo parlava. «Tu parli, topo?» domandò il principe. «Uffa! Non sono un topo! E tu dove vai? Che fai? Chi sei?» «Sono il principe della contea, Baldovino. Inseguivo una preda e ho visto questa luce. Tu chi saresti?» «Io sono il ghiro parlante, soriche padente, e faccio la guardia al sarcofago che vedi accanto a me. Dentro vi riposa nel suo lungo sonno la bella Adelaide.» Il principe Baldovino rimase in silenzio, chinò il capo e in segno di rispetto indietreggiò insieme alle guardie. Stava per uscire dalla nicchia quando il ghiro parlante lo chiamò. «Nobile principe Baldovino, perdona, non vuoi tu guardare la bella Adelaide prima di andare via?» Il principe si fermò e disse: «Certo, mi piacerebbe vederla, anche solo un po', ma non voglio disturbare il suo lungo viaggio.» «Sento che sei un buon principe. Dunque meriti di vederla e io te lo concedo. Ma non stare troppo ad ammirarla, perché la bella Adelaide potrebbe svegliarsi e poi, insomma, Tu mi capisci, vero? Disse Soriche Patente con uno sguardo che sottendeva qualche intendimento. Il principe sorrise e subito dopo il ghiro parlante svanì nel bosco. Rimasto solo, Baldovino chiese alle sue guardie di aprire il sarcofago con molta cautela. Appena fu aperto, gli occhi del principe videro la bella Adelaide ed egli restò incantato. Mai aveva visto nulla di più bello. Adelaide stava lì, con quella veste bianca che le donava purezza e splendore. Era bella da vertigine e i suoi lunghi capelli rossi la avvolgevano come fosse un mantello vellutato. Dormiva per il lungo sonno, sì, eppure non dava l'impressione d'essere senza vita. Il principe, ricordando le parole del ghiro parlante, non distolse mai lo sguardo dalla bella Adelaide, che lentamente pareva tornasse ai primi respiri. Adelaide aprì lievemente i suoi occhi, volse il suo viso e incontrò il sorriso del nobile principe Baldovino, che subito si scusò. Dolce e bella Adelaide, io sono il principe della contea Baldovino. Vi chiedo di perdonare se ho disturbato il vostro lungo sonno. Perché dormivo? Eh sì, così pare. Non mi sono accorta. Vi chiedo scusa se ho mancato di rispetto. Stavo a far rammendo in casa dei miei fratelli quando ha bussato alla porta una donna per dirmi che aveva trovato un bracciale di asparagi. E no, ho sbagliato. Quella donna andava in cerca di asparagi. Sì, è così. E tra i cespugli ha trovato questo asparago, e cioè questo bracciale. Adelaide osservò il polso e stupì. Oh, è scomparso! Mentre Adelaide mostrava il braccio, proprio in quel momento si sentì un grido di battaglia provenire da fuori della nicchia. I tre briganti avevano scoperto le guardie del principe e si dirigevano verso la nicchia, pronti a combattere in difesa della defunta Adelaide. Ma subito Adelaide si alzò e gridò forte: «Fermatevi! Oh, fratelli miei, fermatevi! Egli è un principe buono e non intende farmi del male!» Quando i briganti videro Adelaide in piedi, non riuscirono a credere ai loro occhi. «Adelaide, sorellina cara, ma tu eri morta!» «E invece, fratelli adorabili, eccomi qua, che son viva!» A quel punto il principe Baldovino si inginocchiò di fronte alla bella Adelaide. «Io vi amo, Adelaide. Vi prego, dolce fanciulla, spero con tutto il cuore che vogliate accogliere la mia proposta di...» Un attimo prima che il principe formulasse la proposta di matrimonio, ogni cosa, ogni presente, ogni sguardo e ogni respiro si fermarono. Tutti restarono immobili come statue e riapparve il ghiro parlante Soriche Patente. Il topo non topo tirò fuori il suo spadino e punse fortemente l'alluce di uno dei fratelli briganti. «Ai!» gridò il malcapitato brigante. «L'anello!» ordinò Soriche Patente. «Come? L'anello. Manca l'anello. Mi capisci quando parlo? L'anello. A quale anello? Si vede proprio che voi siete dei briganti primitivi e rozzi. Lo sanno tutti che ci vuole un anello quando si chiede la mano a una fanciulla. E il principe mi pare che lo stia facendo, o mi sbaglio, ma non ha l'anello. E io? Che ci posso fare? Peggio per lui se non ce l'ha. Ma secondo te, il principe, oggi, è uscito di corte sapendo che avrebbe incontrato la bella Adelaide e tutto il resto? Ma no, certo che no. E dunque, vai, corri nel vostro rifugio, cerca nella rifurtiva in cantina, prendi il più bell'anello che trovi e portalo qui. Sì, corro! Il brigante si precipitò al rifugio, rovistò tra i tanti gioielli, prese l'anello che gli parve più bello e degno per l'occasione e lo portò di corsa nella nicchia del grande castagno. Appena entrò, mise sul palmo della mano del principe Baldovino l'anello e disse: «Fatto!» «Bene, bravo Zoticone, e ora riprendiamo din don dan!» Ogni cosa si rimise in movimento e Baldovino continuò con la proposta di matrimonio rivolta alla bella Adelaide, anello compreso. Stava per infilarlo al dito della ragazza quando si fermò ad osservare proprio quell'anello. «Un momento, io questo anello lo conosco, mi è familiare», disse Baldovino, voltandosi in segno di rimprovero verso i tre briganti, che subito a loro volta levarono indifferenti gli sguardi in ogni direzione, fischiettando: «Ma proprio quello della zia del principe Baldovino dovevi scegliere!» disse a bassa voce uno dei briganti al fratello. «Ma che ne so io? Ce ne sono così tanti! Come facevo a riconoscerlo?» E risero tutti. Adelaide accolse felicemente la proposta di matrimonio del principe Baldovino e dopo alcuni giorni fu celebrato il matrimonio, al quale furono invitati tutti gli abitanti della contea. Molti si chiederanno quale fu la sorte della matrigna di Adelaide. Ebbene, quando i tre briganti scoprirono la verità sulle malefatte di donna Concetta, verità svelata dal servo Antonicco e dal cocchiere Liborio il giorno stesso in cui si sbronzarono alla festa di matrimonio tra Baldovino e Adelaide, decisero che nessuna vendetta fosse più necessaria, perché ormai tutto s'era risolto al meglio. Dopo il giorno della festa, i tre briganti vennero convocati a corte e fu loro concessa la grazia. Per giunta, ebbero l'onore d'essere nominati cavalieri nella guardia del principe Baldovino. Antonicco e Liborio furono nominati vassalli del principe Baldovino e in premio ebbero in dote un grande appezzamento di terra da coltivare insieme a cavalli, buoi, capre e pecore da allevare. Ciascuno mise su famiglia, ebbero tanti figli e ovviamente diventarono compari. Donna Concetta, infine, rimase a ruminare la propria invidia nella bottega di frutta e verdura, dove nessuno più andò a far compere e di conseguenza la donna dovette chiudere e andar raminga per il mondo. Di lei nessuno seppe più nulla. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net